Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. I dati di contesto li conosciamo tutti: le chiusure causa lockdown penalizzano tutto il mondo del commercio fisico, ma soprattutto quello dei negozi di vicinato, il commercio di prossimità spesso troppo piccolo per sfruttare le potenzialità dell'e-commerce, che in questi mesi, lo sappiamo, sta assistendo a un boom senza precedenti, a vantaggio però soprattutto dei colossi. Ecco perché oggi vi raccontiamo un'iniziativa, una realtà che guarda proprio ai negozi di quartiere con la prima piattaforma di call shopping. Pronti per il video commerce? Viaggia tutta online quest'anno, ma non smette di informarci e appassionarci. Fa la cosa giusta, la Fiera Nazionale del Consumo Critico e degli Stili di Vita Sostenibili. E poi focus sui trend dedicato alla nuova grammatica dei consumi post-Covid, parole, simboli, gesti e riti entrati nella nostra nuova normalità. Chiama Shop Call ed è il primo sistema di call shopping o video commerce. Permette cioè di fare acquisti attraverso una semplice videochiamata. Un sistema particolarmente adatto ai negozi di vicinato, così penalizzati dalle chiusure di questo periodo, perché a differenza dell'e-commerce mantiene il loro punto di forza, la relazione con il cliente. Ce lo siamo fatti raccontare dall'ideatore Roberto Murgia. ShopCall è un sistema che consente ai negozianti di poter avere una vista sul mondo digitale, proprio a tutti i negozianti, anche senza avere nessuna competenza tecnica. È un'applicazione molto semplice che permette ai negozianti di ricevere delle videochiamate da parte dei clienti, semplicemente attraverso il click di un link, che può essere sul proprio sito, sui social o condiviso con WhatsApp o gli SMS. Una volta che il cliente vede il link, lo clicca, parte subito una videochiamata verso il canale ShopCall del negoziante. Il negoziante a questo punto risponde, riceve una notifica e qui inizia la vera e propria vendita virtuale. Il negoziante mostra i suoi prodotti all'interno del suo negozio e quando uno dei prodotti è, diciamo, interessante per il cliente, lui attraverso una funzione fa una foto e così va avanti fino a creare una wish list, quindi una lista come fosse in realtà un e-commerce. Una volta che si vuole chiudere il carrello, quindi sostanzialmente il negoziante in tempo reale attraverso il suo smartphone inserisce descrizioni, prezzi, crea un vero e proprio carrello e lo condivide con il suo cliente in tempo reale, quindi durante la videochiamata. Il cliente a questo punto visualizza i prodotti, esamina il carrello e dà una conferma d'ordine, inserisce i suoi dati, inserisce anche i dati della carta di credito. Se decide di acquistare attraverso la carta di credito, in quel momento la vendita è conclusa. A questo punto il negoziante si attiva per la spedizione oppure può mettere a disposizione i prodotti per il ritiro a cura del cliente, appunto nel caso di negozi di prossimità. Quindi tutto avviene, come dire, in real time, come se il cliente fosse fisicamente presente nel negozio. Questa chiamata come avviene? Allora, non bisogna scambiarsi un numero di telefono, ma il negoziante ha semplicemente un link a disposizione e questo link può condividerlo, come dicevo prima, sui suoi social, sul suo sito o addirittura può inviarlo via WhatsApp, SMS, via email ai propri clienti. Il cliente non ha bisogno di fare nessun tipo di installazione, semplicemente clicca il link e col suo smartphone attraverso il browser inizia a comunicare con il negoziante. Quindi nessuno deve installare nessun tipo di software né di nessuna applicazione, insomma. Noi crediamo che questo possa essere un nuovo modo di dire, di vendere. È un modo che consente di valorizzare le competenze dei negozianti, la loro capacità relazionale, e dando loro uno strumento che sia assolutamente semplicissimo da usare, senza nessuna necessità di avere un catalogo, di fare un e-commerce. Non tutti possono poi permetterselo. Ecco, il piccolo negozio di quartiere, che in questo momento ha necessità di strumenti nuovi, innovativi e semplici per poter rimanere in contatto con la propria clientela. Il riscontro in questo momento è molto, molto buono, devo dire. Cambiamo argomento, ora parliamo di Fa la cosa giusta, la tradizionale fiera, appunto, di riferimento per il consumo critico e gli stili di vita sostenibili. Quest'anno l'appuntamento è ovviamente tutto online fino al 29 novembre su falacosagiusta.org, e uno dei quattro focus della manifestazione è dedicato alla riflessione sulla società post-pandemia, consumi, città, tessuto sociale. Corinne Barbieri. Abbiamo deciso appunto di ripartire per ovvi motivi da questa rilettura della società, con l'idea appunto di guardare quelle che sono le criticità che sono emerse durante questi mesi, in realtà erano criticità già presenti ma che durante questa pandemia sono saltate all'occhio in maniera veramente preponderante. Quelle più evidenti è sicuramente quella legata al sistema sanitario. Parleremo anche ad esempio del tema della comunicazione, che in questi mesi ha ricoperto un ruolo fondamentale. Siamo stati bombardati da tantissime informazioni e ci siamo scontrati e confrontati col linguaggio scientifico, di cui purtroppo non abbiamo un grande feeling. Cercheremo di capire come, ad esempio, il cittadino qualunque possa orientarsi in questa miriade di informazioni e distinguere delle fake news da dei contenuti informativi invece veritieri. Dal punto di vista dei consumi, l'emergenza ha messo in evidenza nuove priorità, non sempre così facilmente abbinabili a quelle che erano le priorità precedenti. Sì, questo senza dubbio. Sono nate necessità alle quali non eravamo assolutamente abituati e ci siamo resi conto anche come la forbice, la disparità tra ceti sociali più alti e poveri si sia drammaticamente allargata. Sicuramente questi temi vengono trattati all'interno del nostro appuntamento in maniera molto trasversale. Parleremo anche dell'Africa, parleremo dei conflitti che nel mondo si sono in parte fermati, in parte sono cresciuti, a volte giocando anche sulla questione della pandemia. Quindi uno sguardo molto globale su come i consumi siano cambiati e le necessità anche. Spazio ovviamente anche ai vostri temi forti di sempre, il radicamento e la valorizzazione dei territori, ovviamente la sostenibilità e quindi il rispetto della biodiversità. Esatto, sono due temi assolutamente sempre presenti ormai da 17 anni durante la nostra manifestazione, e anche in questo contesto non abbiamo potuto assolutamente ignorarli. Parleremo nel filone tematico di parte dei territori proprio delle aree interne, quelle che sono più colpite dallo spopolamento, quelle più marginali, che però sappiamo essere anche quelle più incontaminate, che sono per il futuro una vera riserva. E su questo tema parleremo anche di imprenditoria, perché chi decide di investire sul territorio in queste aree così particolari ha spesso dei vantaggi importanti, soprattutto ci sono delle ricadute sulle comunità veramente importanti. Sulla nostra pagina internet www.faracosagiusta.org trovate tutto il calendario di appuntamenti che potete seguire in diretta sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché tra poco continuiamo a parlare di consumi e nuove tendenze, raccontandovi la nuova grammatica, l'abbiamo chiamata così, dei consumi post-Covid, dalle parole ai gesti. Ecco come il mondo della comunicazione, del retail, del design ha assimilato, sta assimilando il cambiamento. Ogni storia ha nel mezzo un confine, una linea da varcare oltre la quale la vita cambia. A Linee d'Ombra raccontiamo proprio queste storie, le vostre. Guardatevi alle spalle, cercate quella linea che avete oltrepassato e vi ha reso chi siete ora. Una linea d'ombra che vi ha fatto scoprire parti nuove e diverse di voi. Piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Storie di infanzia diventata età adulta, di sport che ci ha trasformato, di passioni che ci hanno plasmato, ma anche piccoli episodi quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Se volete raccontarceli, scrivete un paio di pagine e mandatecele a lineedombra@radio24.it. Se volete ascoltarle, dal lunedì al venerdì, alle 15, solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e le storie le racconto per voi. Essere e avere. Nichts. Niente, assolutamente niente. Siamo stati pigri come procioni. Giorno e notte abbiamo tenuto le chiappe a casa. È così che abbiamo combattuto la diffusione del virus. Il divano era il nostro fronte, la pazienza la nostra arma. Sapete, ogni tanto mi viene da sorridere ripensando a quei tempi. Quello era il nostro destino. Così diventammo eroi in quell'inverno del coronavirus nel 2020. Focus sui trend. L'abbiamo appena ascoltato, il video è diventato virale in poco tempo, lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook. Si tratta della geniale campagna del governo tedesco per contrastare il coronavirus, uno spot in cui, con la modalità di un finto documentario, in un futuro indefinito, un anziano signore racconta le gesta dei giovani del 2020 che hanno salvato la patria. Restare a casa, stravaccati sul divano, questa appunto la ricetta, una chiave ironica per comunicare come in realtà basti davvero poco per sconfiggere il coronavirus. Questa campagna è lo spunto per noi per parlare della nuova grammatica dei consumi post-Covid, dal linguaggio ai comportamenti, i nuovi simboli, i gesti, le parole della nostra nuova quotidianità. Lo facciamo con Sabrina Donzelli di Future Concept Lab. Ciao Sabrina, bentrovata. Un saluto a te e a tutti quanti. Partiamo proprio dalle parole, dalla parola dell'anno scelta da un prestigioso vocabolario. Ora è una parola molto familiare, ma fino a qualche mese fa in pochi l'avevano sentita, tantomeno l'avevano usata. Di che parola si tratta? Stiamo parlando di lockdown. Lockdown come parola dell'anno, secondo il dizionario Collins, il dizionario inglese Collins, che è diventata sinonimo dell'esperienza delle popolazioni di tutto il mondo durante la pandemia di coronavirus. È stata un'esperienza, ahimè, unificante per miliardi di persone in tutto il mondo che hanno in qualche modo dovuto svolgere la loro parte nella lotta alla diffusione del virus. Ecco. E loro hanno registrato, ovviamente attraverso l'osservazione di siti web, radio, televisione, libri, quindi diciamo tutti quei canali e contesti d'uso, hanno registrato 250 milioni di utilizzi della parola lockdown nel 2020 contro i soli 4.000 dell'anno precedente, quindi veramente una diffusione incredibile. Del resto la lingua riflette il mondo che viviamo, il mondo attorno a noi, e il 2020 è stato dominato dalla pandemia, tanto che fra le 10 parole che hanno inserito, 6 sono riferite alla crisi sanitaria globale, quindi anche autoisolamento, distanziamento sociale. Passiamo ai simboli della pandemia, parlando di emoji e della loro pervasività nel linguaggio contemporaneo. Sì, noi abbiamo visto inserire addirittura lo smile con la mascherina, uno smile che è diventato ormai un simbolo alla portata di tutti nella sua varietà e moltitudine di espressioni. Addirittura, ecco, questo smile con la mascherina è entrato nello spirito del tempo. E a proposito di spirito del tempo, vorrei citare la recente uscita di un libro dedicato agli smile, un libro curato da un ex DJ britannico, ora curatore, un artista, un direttore creativo e designer, Burkman & Broad. Ecco, loro hanno seguito negli ultimi 5 anni una ricerca, un progetto di ricerca, portando alla luce la complessa e anche vasta storia di uno dei simboli più iconici della cultura moderna, proprio la faccina sorridente gialla, che ha avuto veramente molte vite, sia come driver principale positivo, ma anche come sobbergente convertitore controculturale di quel mainstream generale usato da cinema, graffiti, design grafico, cultura alta e bassa, insomma veramente è stato intessuto in quello spirito del tempo di cui parlavo prima, ma anche ammiccando a questo stesso spirito nel nostro universo fisico e digitale. La misurazione della temperatura corporea è diventata uno dei nuovi gesti del retail e dei servizi più in generale. Ecco che allora si cerca di normalizzare in qualche modo, di rendere ben accetta questa nuova ritualità. Un brand ha declinato proprio questo concetto. Siamo sempre in un ambito creativo e artistico anche. Qui troviamo un grande retailer, la catena d'abbigliamento giapponese Uniqlo, che ha creato opere di thermo art, appunto prodotte con il calore del corpo, per una campagna che si intitola We Stay Warm Together, stiamo caldi insieme, dedicata a una linea di capi che si chiama Headache, capi termici. Quindi in questo periodo in cui la misurazione del calore corporeo tra scanner termici, termometri, anche all'ingresso dei luoghi pubblici e dei negozi provoca anche un po' di ansia e viene sentita anche un po' in modo invasivo, questa campagna trasforma questa occasione in un gesto artistico, se vogliamo, anche invitante. Praticamente una campagna nella quale vengono create in tempo reale animazioni ed effetti speciali usando le variazioni di colore collegate alla temperatura del corpo umano, e l'idea è di permettere al pubblico di sperimentare visivamente il calore prodotto dal proprio corpo. Sono stati coinvolti un interactive designer, un visual artist e una cantante, per cui veramente unendo arti diverse, e queste opere di arte digitale sono prodotte da una tecnologia che utilizza addirittura 3 telecamere, e il risultato di ciò che queste 3 telecamere registrano: una termica che capta le radiazioni infrarosse, una che cattura i colori e le immagini reali, e la terza le profondità, ecco, quindi segnando le distanze tra i vari oggetti per catturare proprio il segno e la profondità del movimento. È una tecnologia che utilizza l'energia della radiazione infrarossa del soggetto e i suoi movimenti per creare una grafica visiva accattivante, stimolante attraverso i dati della distribuzione del calore corporeo. Chi vuole può anche andare su Instagram, dove hanno inserito uno strumento che genera pop basati sui movimenti dell'utente, ovviamente la pagina Instagram di Uniqlo. Il metro è diventata la misura della nostra nuova socialità, un concetto fondamentale per lo spazio pubblico. L'ultimo è un caso che ci arriva dal Nord Europa. Sì, sempre sul filo del design, della soluzione creativa e pratica, in questo caso anche divertente, utile e divertente, uno studio di design di Amsterdam, Object Studio, ha creato una panchina portatile per il distanziamento sociale, e questa panchina si chiama Corona Crisis Crook. La parola crook vuol dire sgabello in olandese. Praticamente questa panchina è formata da 2 crooken, 2 sgabelli ai poli opposti, quindi sono uniti da una trave con una maniglia al centro. Il tutto è realizzato in pezzi di compensato di betulla che si incastra e si avvita, quindi molto leggero. In mezzo questa trave è decorata con un righello, quindi anche divertente. La misura esatta è 1,5 metri, quanto stabilito per il distanziamento sociale. Viene usato nei parchi, è stato comprato anche da musei per il cortile interno, quindi diciamo è un'idea molto pratica, portatile nel senso come facilità di trasporto ed uso, ma anche versatile, adattabile, e che facilita la relazione, anche qua un senso di empatia possibile, no? Con l'altro e con l'uso e l'insieme. E quindi nel contempo Object Studio offre queste versioni, se vogliamo anche personalizzate, nella parte della trave intermedia, e tutti i ricavati vanno a Medici Senza Frontiere. Grazie a Sabrina Donzelli, alla prossima. Un caro saluto a te, un saluto, ciao. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Morace. Buonasera Francesco, partiamo da un libro questa sera. Sì, buonasera Maria Luisa. Partiamo da un libro che si chiama Fronte di scavo, di un'autrice, Sara Loffredi, è pubblicato per Einaudi, ed è un libro molto interessante perché è un romanzo, ma racconta abbastanza nel dettaglio la realizzazione del traforo del Monte Bianco, quindi ambientato in un'Italia da cui avremo tanto da imparare, fine anni 50, inizio anni 60, l'Italia della ricostruzione, ma soprattutto colpisce il coraggio e la determinazione dei vari autori, personaggi, alcuni dei quali anche veri, che si raccolgono attorno a questo sogno moderno del bucare una montagna. Ecco, quindi mi è sembrato un bel riferimento in un'Italia come quella di oggi, che sembrerebbe invece un po' confusa e avrebbe proprio tanto bisogno di questo stesso coraggio. L'altra cosa molto bella del libro è che c'è da un lato la competizione con i francesi, perché naturalmente lo scavo comincia sui due confini Italia-Francia, c'è questa corsa a chi arriva prima, ma poi c'è il momento della liberazione, dell'incontro e quindi del festeggiamento tra italiani e francesi. Per inciso vincono gli italiani, come spesso avviene nei casi di emergenza di poche ore, ma arriviamo prima noi, ma poi c'è questo momento liberatorio di incontro anche proprio tra i due popoli, e questo è quello che insomma tutti noi speriamo possa avvenire nei prossimi mesi, magari col vaccino. Ecco, questo è quello che alla fine mi sento di dire. Una competizione sana che diventa collaborazione poi nel raggiungimento del risultato. Competere senza dimenticare che nel competere c'è il cum, che è con qualcuno ma anche condividendo un obiettivo. La cosa anche molto bella del libro è che il protagonista, che si chiama Ettore, impara a camminare in montagna, no? Trova il suo passo, come dice l'autrice, che è un'altra indicazione bella in questo momento. Cioè, credo che per raggiungere questo obiettivo ciascuno di noi debba davvero non solo ragionare sul proprio respiro, ma anche ritrovare un passo, che è quello delle grandi imprese. Grazie a Francesco Morace, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Essere a Vere finisce qui, a domenica prossima non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.